Ricci, mi trovo qui all'incrocio, la manifestazione è piuttosto grossa, comunque stavo vedendo le partecipazioni anche da altre città, ovviamente gli spezzoni romani sono quelli più grossi, però ci stanno varie delegazioni e ce n'è qui una della Fiat Mirafiori, ci sono i compagni di Cobas e a loro chiedo subito di parlarci di come sono arrivati insomma a questa manifestazione, anche perché qui a Roma di Fiat Mirafiori non è che arrivano molte notizie, quindi facci un bel riassunto, grazie. Allora, noi siamo di Mirafiori, noi adesso sono 3 anni che siamo in cassa integrazione. Marchionne ha continuato a fare piani industriali, grandi annunci, strategie che poi alla fine ce l'ho portato dopo 3 anni che siamo ancora qui in cassa integrazione a manifestare. Allora noi più o meno saremo un 2005 in cassa ancora e a 0 ore. Dice che ultimamente ha dichiarato che per il 2018 con l'ennesimo piano, che entro il 2018 dovremmo rientrare tutti, però questo è già 3 anni che rinvia questa questione, perciò noi non ci crediamo, noi pensiamo che ci prende in giro come sempre, che porta avanti giusto per tenere tranquille i lavoratori, per far sì che nessuno si ribelli e nessuno possa dar fastidio alle sue manovre. Noi pensiamo che non funziona così. Tutte le istituzioni gli hanno sempre dato ragione, facciamolo lavorare intanto, facciamolo lavorare, ma il culo dei lavoratori che è scoperto alla fine. Le istituzioni non gli interessa nulla, che noi campiamo con 700-800 euro al mese e molti casi integrati hanno dovuto vendere le case perché non ce la fanno a portare avanti la famiglia. Noi non ci crediamo, pensiamo che questa è l'ennesima presa in giro di Marchionne, di El Can e boh. Senti, volevo dirti, è difficile fare le lotte quando si è fuori dalla fabbrica, quindi ci puoi dire che tipo di iniziativa e che tipo di rapporto riuscite a mantenere con gli operai che sono rimasti appunto in fabbrica? Allora, con quei pochi operai che sono rimasti, che sono ancora in fabbrica, noi volantiniamo, gli diamo informazioni, facciamo dei presidi, aiutiamo anche altre aziende, altre fabbriche, altre cooperative dove i lavoratori sono messi sotto stress, dove vengono licenziati senza giuste cause, dove ci sono dei giovani che tipo noi abbiamo fatto tipo un coordinamento col Sicobas per aiutare anche i giovani, visto che noi bene o male, chiamiamoli tra virgolette, prendiamo qualcosa, mentre loro vengono sbattuti fuori senza se, senza ma. Cerchiamo così come gruppo Cobas Mirafiori di portare avanti e ricordare sempre che noi esistiamo ancora, che la Fiat forse non c'è, che ve la stanno in America, ma gli operai sono tutti qua, alla fame, e oltre noi ci sono altri poveri, i nostri figli, che stanno per fare la fame anche loro. Allora, un'ultima domanda è se mi vuoi parlare un po' della situazione della città, perché ogni tanto vengono fuori dei servizi su una povertà che sta esplodendo a Torino, storie di vera e propria miseria. Ecco, se ci puoi fare brevemente un quadro, insomma, degli ultimi anni, come è cambiata, ovviamente in peggio purtroppo, la vita a Torino. Ma noi possiamo dire, a parte quello che si vede, quello che ci sono nei giornali, noi vediamo questa povertà che continua, sempre peggio, noi lo vediamo anche persone che vengono in sede a chiederci se noi conosciamo qualcuno anche per fare un'ora di pulizia per potersi guadagnare quella 10 euro, 5 euro per portarsi da mangiare. Mentre, come ho detto prima, invece quelli della Fiat in cassa integrazione vendono chi aveva la casa col mutuo, si ritrova nella fame perché ha dovuto vendere per pagare il mutuo, alla fine non si trova niente e non riesce neanche più a pagarsi l'affitto. E appunto noi non abbiamo più strumenti per aiutarci anche tra di noi, ci scambiamo la 10 euro come compagni per darci una mano. Va bene, ti ringrazio e buona lotta. Ciao. Pronto? Eccoci qua. Senti, hai anche altre voci là intorno o ci vogliamo risentire? Guarda, possiamo risentirci magari, perché qui c'era un gruppo di coordinamento romano, però preferivo magari sentire in questa occasione situazioni di altre città. Va bene, d'accordo. Quindi, ma quando, se vuoi, fra altri 10 minuti, un quarto d'ora. Benissimo. Mi avvio verso la testa del corteo per vedere un po' la... Non so, le cifre precedenti, io non l'ho visto tutto. C'era dovresti chi stare di presenza. A Piazza Venezia forse la testa sta. Quasi arrivato a Piazza Venezia. Credo che l'abbia superata. Ah. Comunque adesso io mi vado più avanti e vedo. Ma dicevo, la corrispondenza precedente quanto valutava? Parlava di almeno 10.000 persone. Almeno 10.000, sì, va bene. Allora, a più tardi. Ciao. Hey yo, people in the world. Radio Onda Rossa. Cross A to the UK. JA to Mali.